nostro sogno è avere un condominio di oggettine. Parenzo è il primo ad avere questa ambizione. Lo sappiamo che è così. Noi che non siamo religiosi lo diciamo apertamente. Lui, essendo religioso, non lo dice, ma lo pensa come noi. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Una bicicletta nuova ti ho comprato, però tu sei caduto dal sellino ed hai il naso tutto blu. Siamo andati dal dottore, ti ha detto guarirà, basta fare una puntura e tutto passerà. Ci sono due signore, caro Parenzo, che vogliono salutarti. Due gentili signore che signore vogliono. Signori, non ho capito. Signore, scusa. Ci sono due gentili signore che sì, vogliono sì, sì, mandarti un saluto personale, un saluto rivolto direttamente a Parenzo. Sono due signore che tu conosci molto bene, no? Due signore che hanno avuto dei trascorsi anche giudiziari piuttosto pesanti. Adesso sono usciti ambedue dalla galera e vogliono salutarti. Me. Sì. Vogliono salutare te, me l'hanno detto in privato, ho detto salutami tanto Parenzo, torneremo a dare battaglia, torneremo a dare battaglia alla zanzara tra pochi giorni. Compro l'aglio, corna, cornetti rossi, aglio, non voglio neanche sentire il nome delle due graziose signore. Perché, scusa, signore, ma sono dei fenomeni assoluti. Da per baraccone. Esempio, no, da baraccone. Dai, su. Da baraccone e due fenomeni da giustizia proprio. Vabbè, due hanno fenomeni... pagato per quello che hanno commesso? Hanno pagato per quello che hanno commesso? Ci mancherebbe altro, per la gente allora, che hanno fatto soffrire. Certo. Le signore Marchi, anzi, la signora Marchi e la signora Stefania Nobile. Signore. Signore, perché? Come lo vuoi definire, scusa? Come sono? E allora, prima della fine della zanzara, entro il 25 andremo da Crugiani, nostro amico Crugiani. D'accordo? D'accordo? Allora, tu sei fiero di essere amico delle signore? Assolutamente, vero? Sì. Ah, dillo, la dillo. Signora va. Ascoltatori, avete sentito? Ascoltatori? Sì, certo. Gente truffata dalla Marchi. Ma che il c'entra? Signor Crugiani ha appena detto di stimare le signore Marchi. Non abbiamo iniziato con la riforma del Senato, vi siete accorti? No, non abbiamo iniziato con la riforma del Senato. Non abbiamo debuttato, non abbiamo aperto la trasmissione con stasera. Con i nuovi poteri. Con i nuovi poteri del Senato, gli eletti, i non eletti, quali sono, quali. No, i comuni. Le regioni, i poteri, no signori, le signore Marchi invece, Vanna Marchi e figlia, che dicono da quando manchiamo dalla TV ci sono, vedo in giro tanti grassi, ti giuro, è così. Guardavo tutte queste bestie che passano, porco cane, ma sono tutti grassi. Il fatto che vengono, cioè, da guarda, quando allora, manchiamo noi dalla televisione, ragazzi, è un'invasione di lardo. Ma a parte quello, tutto sto lardo, ma chi sei, il fegato, fegato grasso, lardo, si fa il patè, il fegato d'oca, si fa il foie gras, a me piace da morire, buono. Beh, scusa Davide, sarà anche vero, no? Dieta. Cioè, è con vero. Soltanto 80.000 euro, ripeto, 80.000 euro, vi diamo 2 grammi di erba da giardino, 80.000 euro, d'accordo? 80.000 euro. Poco 80.000 euro, però, Questa erba da giardino fa presa a Villa Borghese, fa dimagrire 80.000 euro, d'accordo? Dai, ma questa è gente incredibile. Adesso la nuova frontiera sembra senti questa cosa, senti. Parla scatolate e tan. No, ma io per dire io non lo mangio più questo qua. Scatole, però no, guarda che il cazzo in scatola non sarebbe una brutta idea. Oh, Giorgio. Beh, adesso tu dimmi se noi facessimo quello se non andrebbe a ruba. Capito che vogliono vendere adesso? Cosa vogliono vendere? Scusa, no? Cazzo in scatola vogliono vendere. Il pisello in scatola. Poi se la pigliano con Kevin Costner, senti, con Kevin Costner. Signore, ma sai quell'attore che mi sfugge il nome che presenta il tonno? Il tonno di merda lì che mangiamo, no? Ecco, ora dice l'Italia, quella, insomma. E hanno detto quante persone ha dietro questo qua, dall'America, no, guardie del corpo, business cable, tutta questa roba qua, una roba terrificante, io ho detto no, ma non è possibile. contro Kevin Costner. Vabbè ragazzi, qualcuno ha parlato di sciacallaggio, di sciacallaggio. A proposito di Schettino, il comandante Schettino scelto dal Codacons, cioè l'associazione dei consumatori, per inaugurare la Codacons TV. Io nonostante l'intervento di Rienzi ieri sera qui alla Zanzara, non ho capito ancora a cosa cazzo possa servire, a cosa diavolo possa servire la televisione del Codacons. Lui dice, la televisione del Codacons serve quanto Radio 24. Può darsi che in futuro sarà così, carità. Per carità, fate una zanzara anche a Codacons TV, invitate Schettino, certo avete fatto uno scoop, comunque questo bisogna dire un gran paraculo, signor Rienzi, ma ce l'ha detto a noi anche in maniera chiara, cioè io l'ho fatto, ho invitato Schettino, così si parla di questa roba qui, altrimenti nessuno ci avrebbe filato, questa è la realtà, no? La televisione del Codacons a cosa minchia serve? Scusami. E serve quanto la radio di Radio 24? Serve per lanciare messaggi, se tu te la vedi, però se sei intelligente, te la puoi andare a vedere, vedrai quanti consigli utili ti dà, quando perdi il bagaglio che scendi dall'aeroplano. Allora, Rienzi lo dice in maniera molto chiara: noi siamo parte civile nel processo sulla Concordia, ma Schettino ci ha fatto pubblicità. Noi invece siamo costituiti parte civile contro Schettino, ma siamo incazzati perché è l'unico sotto processo. Gli altri, con 1 milione di multa, la Costa se l'è squagliata. Chiaro? Ci ha fatto una pubblicità. No, è bene o male che l'ha scritto, perché ha fatto tutta pubblicità. E che ci frega, visto che scrive Libero? Scusa. Sulla pista Luna Park, l'hai guidata come un pazzo, tra scossoni e patatrac. Allora, ci sono due cose da dire, caro Parenzo, due cose da dire. La prima è questa: vogliono togliere lo stipendio ai deputati arrestati. Sì, infatti. Allora io dico una cosa. Proposta dei tuoi amici dei proposta dei 5 Stars. Stelle. Io ancora non ho approfondito bene, che bisogna vedere nel privato, nel pubblico, che succede a privati cittadini arrestati, Esatto. Però togliere immediatamente lo stipendio, lo dico anche, non, guarda, questa volta non faccio il populista, dire sì, togliete lo stipendio a quelli arrestati. Cioè Galan, per esempio, che verrà molto probabilmente arrestato la settimana prossima. Beh, adesso deve decidere il Parlamento, sì, oggi ha deciso la Commissione. Ho detto, infatti, molto probabilmente sarà arrestato la settimana prossima, se la Commissione ha deciso in un modo, è chiaro che l'Aula deciderà per l'arresto di Galan, è abbastanza evidente, comunque aspettiamo che succeda il 15. Se passasse questa proposta, Galan immediatamente, una volta che entra in galera, stipendio sospeso. Ora, io sono sicuro che la maggior parte del popolo della Zanzara, la maggior parte della gente che sta seguendo questa trasmissione, del popolo della radio, dirà sì, è giusto, sospendiamo lo stipendio. In realtà non è così, perché se io vengo arrestato, non è che subito, se domani mi arrestano, no, cosa possibile, Parenzo, tu lo sai, no, se domani mi possono arrestare da un momento all'altro, è più probabile che è più probabile che qualcuno, qualche marito arrabbiato, se la prenda con te, questo è più probabile. Ma no, adesso non esagerare, su, cioè, sì, tu dici, più probabile qualche marito arrabbiato che trova le tue mutandine sono in casa, preoccupato per l'Ndrangheta, poi ti racconto perché. Sì, anch'io però comunque, insomma, mi possono arrestare, sì, da un momento all'altro per mille cose, per tutte le porcate che facciamo, per tutte le porcherie, le intemerate che facciamo, mi potrebbero arrestare. Allora non è che il giorno dopo mi sospendono lo stipendio. Sono arrestato, mica sono condannato. Se uno è condannato, poi si vede, naturalmente. Beh, però Radio 24 può decidere di sospenderlo. Ma quello non lo so, bisogna vedere. Perché è un'azienda privata. Ma no, ma non credo, non credo. Comunque, secondo me, uno, non è che per il solo fatto che viene arrestato lo stipendio deve essere fermato, bloccato. Sono Vediamo. D'accordo. Sono d'accordo. Ma ti pare possibile che Roma, riflettevo su questa cosa della monnezza, no? Di cui si discute a Roma. Tu sei a Roma, sicuramente c'è un problema. Non so se c'è dalle parti tue, nei quartieri ricchi dove abiti c'è un problema. Non so se nei quartieri ricchi dove abiti c'è un problema. A Prati, dove abito io, c'è un problema di monnezza enorme. Allora, è pieno di gabbiani. Ma vi pare possibile che Roma, 63.000 dipendenti, 63.000 dipendenti in tutto, tra aziende municipalizzate, dipendenti del comune, ci deve essere la monnezza per strada? Ma uno dovrebbe ribellarsi ogni giorno, andare sotto l'ufficio del sindaco a fare qualcosa. Non è possibile. Roma è la città che ha più dipendenti in tutta Europa, forse anche nel mondo, il rapporto agli abitanti. Hanno arrestato hanno 63.000 dipendenti in tutto, una vergogna mondiale. Ma da quando, come tu sai, da la quando città hanno dovrebbe arrestato... essere uno specchio. Ma hanno uno arrestato specchio. Mister Monnezza. Vabbè, ma sai, non stare a spiegare quello che è successo, che non me ne frega nulla. La realtà è questa. Questo. ci sono 63.000 dipendenti, la città dovrebbe specchiare con 63.000 dipendenti, dovrebbe essere il massimo dell'efficienza, e invece non funziona una mazza. Basta fare una puntura e tutto passerà. Oh ragazzi, l'ha fatto per davvero, eh? L'ha fatto per davvero. Cosa, noi gliel'abbiamo suggerito. Eh beh sì, è un mio amico. Mi fregio di questa cosa, un mio amico. Frequenti brutta gente. Ma no, ma, l'ha fatto per davvero, l'ha fatto per davvero. Era un suggerimento, l'ha fatto per, ha vietato il bacio gay, cioè vietato. Non ha vietato. Cioè, multa di 500 euro a chi si bacia per un bacio gay nel suo comune. Siamo alla follia. Gianluca, buon anno, buonasera. Ciao, ciao. Ma veramente, cioè, hai fatto questa delibera? Allora, è in fase di studio perché ci sono di mezzo anche gli avvocati, fase perché è molto studio. Delicata, molto delicata. Ho capito, però, però il principio è questo. Il principio è questo qua, che vedere due omosessuali che si baciano, sinceramente non mi sembra una cosa molto che possa andare bene. No, ti fa proprio schifo, non è che non ti, cioè questo, no, è il punto. Sì, a me personalmente, ma poi ovviamente devo pensare ai cittadini, quindi sotto l'aspetto etico non mi sembra. Scusa, il massimo della vita. Hai annunciato però questa cosa, multa di 500 sì. euro, ma qual è sì. il problema? Quello è l'obiettivo, ma però adesso sta succedendo già un'altra cosa, cioè? Che i gay d'Italia e non solo si vogliono riunire a Borgosese, ma io sono contento perché... Ma quello è stupendo, infatti questo volevo dire. Ma loro non capiscono niente, pensano di farmi un dispetto, mi fanno un regalo. Questo volevo dire. Gay di tutta Italia, dovete andare tutti a Borgosesia, perché io sono contrario a questa cosa. Io conosco Gianluca eccetera, ma sono contrarissimo a questa cosa qua. Dopodiché io dico una cosa: gay di tutta Italia, andate tutti a Borgosesia a baciarvi in pubblico. Il circo c'è già? Il circo è già perché lì, c'è il circo? Perché stai dicendo pure. Che i gay fanno circo? No, Lorenzo? Andate lì ad aumentare il casino della città. Perché stai dicendo che chi si bacia fa circo, no, bar? Io sono d'accordo. No, io sono assolutamente d'accordo con questi che si baciano. Dovrebbero andare tutti a Borgosesia a baciarsi, no, davanti al comune. Ragazzi, ma adesso a parte tutto, ma un bambino che vede due uomini e due donne che si baciano, ma un bambino che vede te, che esempio gli dai? Altro che uno che vede te che fai l'europarlamentare, dice ce l'ha fatto lui, ce la posso fare anch'io a fare, che so, l'astronauta, il fisico mondiale. Una persona umile, farò la scissione dell'atomo se quello lì un bambino qualunque ti vede. Fallo rispondere un attimo. Se ce l'ho fatto io è vero, possono farcela altri. Invece tu che sei un asino ma fai il giornalista, quindi anche gli asini di tutta Italia possono fare il giornalista. Sì, vabbè, questo d'accordo, va bene. Però io voglio capire, lei a tutti viene usato, la tua foto viene portata nelle comunità di recupero, hai capito? Ma stai dove dicendo, dicono, lo sta insultando, dicono, lo sta insultando. Questo qui fa il deputato, ha fatto il deputato in Italia, ha portato delle spigole alla Camera, ora va al Parlamento Europeo, si distende per terra nei corridoi del Parlamento Europeo. Ma non è ce vero, l'ha fatta, questo signore letto. Ce l'ha fatta. Ho trovato un letto e allora ho detto, vabbè, allora si vede che a Bruxelles si dorme e a Strasburgo si mangia. Ma quali sono? Io non ho capito una cosa. Quali sono i problemi? Perché gli avvocati dicono che una delibera del genere sicuramente no, è anticostituzionale. Perché potrei ovviamente rischiare delle denunce sul fatto della discriminazione. Magari. Invece io, in realtà, è una cosa molto seria. Cioè io la penso come Putin. Sì. Dove ho messo anche la fotografia nel mio ufficio, cioè. Altra vergogna, ho visto. Ma perché, vergogna? Guarda che, allora, se Obama è stato gli è dato il Nobel per la pace e manda indietro i clandestini e voleva bombardare la Siria, un deputato Putin... europeo che mette la foto di Putin anziché mettere la foto ma di Schumann, ma ha detto che vuole fare la spia di Putin in Europa, ha detto. Ma che schifo, ma è una guarda vergogna. Tanto la Russia, per fortuna che c'è la Russia, un traditore dell'Europa, altro perché... gas, altrimenti tu d'inverno sai cosa fai? Dormi sotto il sacco a pelo per lì a Padova, dove cavolo abiti, sei lì, e adesso Bitonci ti aggiusta per le feste e sei tranquillo lì. Ullala ragazzi, buonasera. Le zanzare di casa mia si nutrono di me. Ecco qui l'uomo, l'ha fatto per davvero, una delibera con una multa di 500 euro per chi omosessuale si bacia in piazza, si bacia sulla strada a Borgosesia, e tutti i gay d'Italia dovrebbero convogliare. Guarda che vogliono venire, No, innanzitutto c'è un sindaco di Trino Vercellese che credo che abbia già organizzato. Ma lo conosco, quello è un comunista che non lo caga nessuno, quindi ha cercato in qualche maniera di avere un po' di pubblicità. Vabbè, è uno che si oppone alla cosa che hai fatto tu e dice venite a baciarvi sotto. Tu dici l'ha fatto solo per farsi pubblicità, per far venire la gente a Trino Vercellese. Sì, anche, ma perché Trino a confronto Borgosesia e Varallo, insomma, è un cesso, dici. è brutta. È brutta. Però scusa, tu che cos'è che hai detto? Che vedere due persone che si baciano, due omosessuali che si baciano in pubblico è come? No, sotto l'aspetto etico, cioè secondo me è tu hai detto non ho mai visto è repulsivo, non ho mai visto ma un gatto che abbaia, che c'è? No, sì, cioè quando uno parla, intanto io dico la penso come Putin per questo. Putin non è contro gli omosessuali e io neanche. No, però no, dice no. Lui dice, però non si può esternare, propagandare la omosessualità perché va a discapito, diciamo così, di quello che è la cioè tu non vuoi la che vuol dire propagandare l'omosessualità? Cioè secondo te non dovrebbero esserci quelli che si cioè tu lo sai che in Russia se uno parla ad una radio di gay sostanzialmente può avere dei problemi, sì? Tu puoi essere omosessuale ma non continuare a esternare. Adesso io non sono a quei livelli lì, ma come no? Hai detto che come gay pride eccetera è secondo me esagerata. Cioè andrebbero vietati per legge gay pride? Ah, io non li farei. Cioè, dovrebbero essere vietati per legge, perché non li faresti tu, eccetera. Dovrebbero essere vietati. Vietato, cioè, l'esibizione del gay per strada dovrebbe essere vietata. Ma al di là di questo, una delle cose più gravi... Ma scusa, ma alla fine veramente arriverà il reato di eterosessualità? Cioè, uno che è etero, alla fine sarà punito. Ma guarda che la lobby dei gay l'ho già vista... a Bruxelles, a Strasburgo. Già l'hai vista a Bruxelles? Che già è pieno di gay. È pieno pure al Parlamento. Sono loro che comandano tutto. Ma il Parlamento europeo è pieno di froci, dici? Così dicono. Ma così dico, l'hai vista? È pieno di gay. Detto. Vabbè, io le ho viste. Adesso non è che conosco tutto, sono andato lì solo qualche volta. Però l'impressione è che è pieno di gay. Sì, sì. E che comandano la grande. Comandano i gay, comandano il Parlamento europeo. Le parezze di qualcosa. No, volevo capire questo. Come fa l'onorevole Bonanno a portare i leoni al Parlamento europeo? Come dove li tieni? Quali gabbie li tieni? No, i leoni? No, però mi sono un'altra cosa. Senti, cioè, i camion del circo Bonanno. Non riesco a portarli. Ma gli asinelli, sì, se vuoi venire il camion scherzi a parte, lo trovo veramente vergognoso e spero che qualche eurodeputato all'ascolto lo faccia. Ti dovrebbero fare un'interrogazione perché un eurodeputato che tiene la foto di un nemico dell'Europa nel proprio ufficio è una delle cose è vergognoso. Sono nell'Europa stessa, i nemici dell'Europa si chiamano Merkel, Schulz, vai a vivere lì, vediamo se dentro la Duma fai i giochini banchieri. Che fai qua, ti appendono sono per i piedi, se tu alla Duma osi fare quel che hai fatto qua, dopo un giorno sparisce Bonanno, dov'è Bonanno? Bonanno non ci è. Come non c'è? Ma chi mai detto, stato? No. Bonanno mai stato cosa. Parlamento? Ti fanno sparire, capito lì? Merkel, Schulz. Ma se la Germania vince delle banche, delle lobby. Ma stai attento che la Germania vince pure il mondiale adesso, stai attento. Sì, ecco, speriamo di non, io tengo per l'Argentina, fino in fondo, Argentina, fino in fondo. Cioè contro perché la Merkel. Se vincono anche il campionato del mondo siamo freschi. Senti una cosa, ma a parte che secondo me i gay devono baciarsi in mezzo alla folla in un supermercato nell'ora di punta in mezzo ai bambini. Ma no, sì. ma è contro natura, ma cosa stai dicendo? Cosa è contro natura? Il bacio omosex è contro natura. Il gatto. Ma tu hai già sentito un cane che miagola o un gatto che abbaia? No, cioè la natura è stata fatta in una certa maniera, è fatta cioè una il bacio omosessuale è contro natura, tu dici? Vabbè, il bacio, l'atto... Secondo me sì. Quando tu... di più l'atto sessuale... Prova a immaginare due uomini avvinghiati in un letto. Che cosa provi? No, repulsione, cioè mi fa schifo, scusate il termine, mi dispiace, ma mi fa schifo. Ma non che ce l'ho con loro, a casa loro faccio quello che hanno voglia. Pubblicamente a me sinceramente fa schifo, è il sentimento che mi viene fuori. Ma Putin lo vorresti al posto di Napolitano, sì, a voglia? Come presidente? Secondo me Putin oggi è l'uomo più forte del mondo. Meglio di Napolitano, cioè lo vorresti al posto, magari ci fosse lui al posto di Napolitano, no? Dici? Beh, posso dire, guarda, anche se io non sono ovviamente di sinistra, Napolitano ha fatto anche, è stato ed è un uomo che malgrado l'età ha fatto molte cose importanti, perché se non c'era lui mi sa che questo paese era già a rotoli. Ma però tu... nello stesso tempo, dopo oltre 60 anni che sta nei palazzi... Allora, però c'è una cosa che ti devo dire sulla Lega di oggi, anzi no, la riprendiamo più tardi, è dato a te che te frega di quello che fa Salvini, eccetera, sulla compagna di Salvini che lavora alla Regione Lombardia, Lombardia guidata da Maroni, chiamata diretta, una cosa un po' di familismo, no? Hai letto? Non so, sinceramente non so la questione, però se, non sai niente. Se è stata fatta perché si poteva non fare. Sai niente, c'erano cose più importanti da fare, perché il trasporto delle foche da Varallo-Sesia a Bruxelles, il trasporto delle foche e dei rinoceronti. Ma lo sai che c'è l'esercito di Buonanno? Tu lo sai che c'è l'esercito di Buonanno? Sì, l'ho appena defollowato, guarda, l'ho appena bloccato. Si è creato su Twitter l'esercito. Ma perché stai bloccando tutti? Tu ancora devi dare spiegazioni sul fatto che hai bloccato l'esercito di Parenzo. Ho convocato l'altra settimana una conferenza stampa alle 8. Non hai alle 8 e mezza? No, non l'ho trasmessa. No, non l'ho trasmessa. Però ne convoco un'altra. Su Twitter è nato l'esercito di Buonanno. E io l'ho già bloccato. Ma perché? E io l'ho già bloccato. Sarà un mio diritto a bloccarlo? Posso dire ancora una cosa? Ma se un gay ti vuole. Perché guarda che hai lo spettacolo delle 8. Hanno già strappato i biglietti. Posso dire una cosa? Sì, guarda, certo. Che quelli che fanno casino e faranno casino su questa cosa sono quelli, ovviamente, che come dire. Buonasera, allora siete due facce di merda, ovviamente. Bene, 19:21, circa 28 minuti di interruzione. Quant'è? 21, 140 minuti di interruzione. Roba incredibile. Roba incredibile. Ma siamo sempre qui a combattere, caro Parenzo. Siamo sempre qui. Qui. Siamo sempre qui. Scusate, messaggio per che Bruxelles. È scappato un leone dal circo, Buonanno. Sì. Siete pregati di segnalarlo, perché lo spettacolo delle 21 altrimenti non può andare in scena. Grazie. Il leone ti mangia. Buonanno, aspetta un attimo. Senti Renzi in inglese. Però c'è una premessa. Renzi ripete sempre questa cosa della madre che pianse per la caduta del muro di Berlino, che poi chissà se è vera, no? Però ogni statista racconta le sue. Renzi, cioè ogni capo di Stato, ogni capo di governo, sentiamolo prima in italiano, brevemente. Renzi, mia madre pianse per la caduta del muro di Berlino. Io ricordo mia madre piangere davanti al muro di Berlino quando l'Europa tornava a essere una e cadevano le frontiere e cadeva quel confine. Ma vorrei. Sentiamolo, l'altro ieri a Venezia, in un drammatico inglese. No, non è. Sì, ma qua, senti, altro che. No, in alcuni momenti è buono, in altri momenti. Io dico una cosa, quello che colpisce, perché molte persone hanno fatto figura di cacca, figura di merda con l'inglese, però magari non davano nemmeno, no, l'impressione di volerci. Cioè, non. Lui ci crede davvero, cioè, ci crede che di parlare un buon inglese. Cioè, le persone intorno erano. Ma che Toscan English, senti. My personal experience, Europe was my mother who cried in the TV when she felt the Berlin walls destroyed by the people. Nobody won. Dai, su! Qui un po' deboluto. Il signor Sloan avrebbe molto da dire. Dai, su! Sloan. Amici miei. È Zoruffini. Allora, io voglio dire una cosa a Buonanno. La Pascale, secondo Buonanno, sta distruggendo il centrodestra con questa sua grande battaglia sulle coppie gay? Ma sicuramente non gli fa un favore. Ah, se perdiamo anche questo... Questa cosa non so dove andiamo a finire. Io dico questo, che ovviamente anche la mia idea, la mia proposta. Quale proposta? Quella dei baci, la di multare chi si bacia. Ovviamente crea scompenso, pasticci, però quelli che fanno casino sono infinitamente minori rispetto alla maggioranza silenziosa che sono convinte d'accordo con me. Cioè, multare le persone perché si baciano. No, che gli dà fastidio vedere due omosessuali che si baciano in pubblico, ma dai. A me sinceramente non piace neanche quando due eterosessuali si baciano. Ma scusa, se uno ti vuole baciare, se un gay ci prova, no? Se un gay ci prova con te, tu che fai? Ma no, lo respingo, ci mancherebbe altro. Vabbè, lo respingi, d'accordo, cioè lo respingi. Però è normale che uno ci possa provare con un'altra persona, poi uno dice no. Ma baciarsi, ma in maniera, come si dice... così appariscente, no? Ma non esiste, ma i principi, la questione. cioè quello che vede un bambino, una persona. Ma un bambino glielo spieghi, due persone che si amano. Ma spieghi che il mondo è cambiato e che adesso i figli fanno l'uomo con l'uomo o la donna con la donna, ma non esiste. Non esiste neanche l'adozione. Vabbè, l'adozione, figuriamoci. Scusatevi, scusate il telefono. Ma sì, ma che sei impazzito con questo telefono? Scusate, sì. Ah, ho capito, d'accordo. Segnalano davanti al Parlamento di Bruxelles 3 giraffe scappate dal circo Buonanno. Scusate l'interruzione, scusate. Okay. Invece Parenzo, che sarà omosessuale, scusate, di sicuro. Ah, no, sei omosessuale, perché se detto. Allora, il principio che dice. Dai, l'Europa... ma chi è? Ma basta sto pronto? Telefono. Sì? Ah, segnalano anche 2 elefanti scappati dal circo Bonanno. Scusatemi l'interruzione, scusate, ho dato arrivo delle segnalazioni, scusate. Il principio dell'Europa, che non ha voluto e si è vergognato di dire delle radici cristiane. Davide, sì? Vuoi mettere per favore, vuoi mettere in onda questo stronzo che ti sta chiamando? Pronto, per favore? Sono io che mi sto facendo autosuonare il telefono. Pronto? Sì? Ah, ho capito. 2 pagliacci stanno molestando un deputato tedesco. Saranno, scusi, quelli del circo di Buonanno. Scusi. Aspetta, abbiamo Giovanni da Roma che vuole intervenire su una cosa. Giovanni. Sì, buongiorno Cruciani. Ciao, dimmi. Poi volevo dire, insomma, mi piace questa cosa che si dovrebbe parlare in inglese, no? Io perché? Mi chiamo da Roma. Perché insomma il Parlamento Europeo è, come dire, è internazionale. Io sono orgoglioso che c'è qualcuno che ci rappresenta, che parla pure inglese. E posso parlare in inglese? Parla in inglese, Giovanni. Prego, Giovanni. Posso fare una domanda? Sì. Io sono Mr. Bernard, I just wanted to ask you, how do you feel in Brussels? I mean, what's the mood over there? I mean, how Italians are perceived in Brussels? Buon anno? Non ho capito. Ma come non hai capito niente? Non ho capito Giovanni. Assolutamente nulla di quello che ha detto. Ma come sembrava non hai... che sembrava che gli fosse uno che aspetta un attimo. Giovanni, vuoi ripetere un attimo? Excuse me. Can I talk directly to the gentleman? Would that be all right, please? Mr. Buonanno, I understand you speak English and you represent Italy very distinctively, I hope. So just let me know. Because, you know, I'm proud of it, because English is the current language that we should all use. And our you know, your listeners, what's who's laughing? What's going on? Ma hai capito? Gianluca, hai capito o no? Parola, non ho capito niente. Cioè, non parli inglese tu? No, io parlo un pochino l'inglese, ma non ho capito niente perché mi sembra uno che ha bevuto 5. Ma che ha bevuto? Parla un inglese. Come ti permetti? Ma parla un inglese perfetto. Ma allora lo parla troppo veloce. Io sto... Vabbè, parla un po' più piano. Allora, Giovanni, parla leggermente più. Okay, I was asking what is the mood in Brussels? È Parenzo, dai. Ma non è Parenzo. What is the mood, the atmosphere. The mood. L'atmosfera, capito? L'atmosfera a Bruxelles, il mood. Ma questo dovrebbero rappresentarci che parla l'inglese, però se no come va la cosa? Non capisco. Buonanno, rispondo a questo Giovanni. A un romano rispondo così. I romani hanno sono 2000 anni che gestiscono il potere senza parlare l'inglese. E allora? Ma che c'è? E allora che cosa vuol dire? Io sto imparando, intanto adesso sto facendo... Fai un corso? Sia per l'inglese che per il francese. Ah, fai un corso? Dove lo fai il corso? Lo faccio a casa, lo faccio a Bruxelles. Sì, Giovanni, fai un'altra domanda in inglese, dai, per vedere a che livello siamo. How is the weather, Mr. Buonanno? The weather. Il tempo. Sì, troppo facile però, Giovanni, troppo facile. Vabbè, dai. Comunque ascolta, io voglio dire questa grazie cosa. Giovanni, grazie, abbiamo capito grazie tutto. Giovanni, grazie. Però no, parlava velocissimo. Vabbè, parlava in inglese, cioè, quando si va a trattare, quando si va... Ho capito, però... Però vabbè, niente. Non si va con le scimmie, capito, a trattare. E col naso rosso. Parenzo, hai un'invidia perché io prendo i voti e te invece... Aspetta, Alessandro, provincia di Vercelli. Alessandro, provincia di Vercelli, aspetta questo. Alessandro? Pronti? Chi è? Ciao Gianluca, sono Alessandro. Chi è? Ciao. Siamo stati colleghi in consiglio provinciale, ti ricordi? Ma dov'è? Ma che sei, sindaco? Ah, io, Alessandro Portinaro! Ah, ma è il sindaco di Trino, allora? Il sindaco di Trino. Allora tu tieniti quelli che si baciano, io faccio altro. Cioè a te i froci, a me le donne, dici Gianluca. No, qui noi accogliamo tutti. Noi. No. È Gianluca che caccia via la gente, noi invece siamo... No, guardiamo le caccio via. Siamo europei. Ma scusa, Alessandro, ti faccio una domanda. Sì. No, dimmi. Visto che siamo colleghi sindaci, no? Sì. Tu dici io sono europeo, ma europeo cosa vuol dire? Che per te gli omosessuali possono fare tutto quello che hanno voglia. Possono fare tutto quello che ne voglio, cosa vuol dire? Che secondo me dovrebbero potersi sposare, dovrebbero poter avere gli stessi diritti delle altre coppie. Ma allora non siamo d'accordo, vedi? Mi sembra. Diciamo, quello lo si effetti, sapeva già prima, si sapeva già prima che non siamo tanto d'accordo, quindi. Vabbè ragazzi, vi devo lasciare, Però facciamo una cosa, visto che la pensiamo in maniera differente, ma comunque c'è stima reciproca. Allora, quelli che non vogliono determinate cose vengono da me, quelli che vogliono determinate cose possono andare dal collega di Trino. Sono orgogliosa dei miei familiari. D'accordo! Sono orgogliosa di chiamarmi Giovanni Cavazzagatti. Piano con queste cose, piano. Terreno scivoloso. Piano, adesso i tecnici non sapevano nulla qua, ma oggi terreno scivoloso. Ho ricevuto una mail, sì, per me, ma sei coinvolto anche tu, Il nome è solo il tuo per ora. Beh, d'accordo, sì, è solo lo mio. No. Spiegherai tutto, è solo per capire. No, c'è anche il tuo. Aspetta che la ritrovo qua. Tra le lettere di oggi che ho ricevuto, la mail che ho ricevuto, sto scorrendo. No, Facebook, ma non è, ma bisogna assolutamente diffondere il più possibile. Bisogna diffonderle. Però più possibile. Parlano soprattutto di te, diciamo. No, anche di te. No, ma quando mai? Anche di te. No, chiedo. No, ti posso dire anche di te. Aspetta. No, un non mi citano. Sì. Parlo di te, di Mercù, di Poli. No. Gente allora, qui. Un tale che si chiama Renzo. Marchesi. Non dico il cognome, non so se lo posso fare. Renzo mi scrive: cari amici Cruciani e Parenzo, la storia dell'Andrangheta ci insegna che voi state rischiando grosso perché abbiamo mandato in onda la voce della figlia del boss e poi la voce di Vanna Marchi. Abbiamo un po' perculato, diciamo. La signora, vi siete esposti fin troppo. Lasciate perdere, non vale la pena rischiare per certe famiglie di Oppido Mamertina. Questi sono pericolosi e si può fare informazione senza rischiare oltre ogni limite, come fanno saggiamente i cronisti calabresi. Le cronache ci dicono anche che questi sono presenti in massa nel Milanese, nell'Interland, quindi non esponetevi troppo, fate attenzione. Per loro organizzare una spedizione punitiva è normale, è il loro lavoro. Un caro saluto, Enzo. Enzo Renzo, poi non so. C'è da ridere molto. No, non c'è da ridere, però adesso no. Non è che abbiamo preso per il culo la signora di Oppida o Mamertina, la figlia del boss con Vanna Marchi, va benissimo per la voce. Abbiamo detto quello che abbiamo detto sui reati commessi dal marito, dal padre che è in malattia. A noi che ce frega alla fine. E lo facciamo e continueremo a rifarlo. Non so se prendere seriamente quello che scrive l'ascoltatore, cioè dovremmo stare attenti perché magari ti puniscono e ti danno una bastonata in testa, ti sfregiano più per una presa per il culo che magari per un articolo serioso, ecco, o un intervento serioso sull'Andrangheta, capito? Senza saperne leggere né scrivere, giusto per sicurezza, la daresti alla Digos, agli amici della DIA. Beh, anche sì. Voi siete una valvola di fuoco fenomenale, minchia, non abbandonate, continuate a picchiare duro e tratti e sgarbi cazzo tutta la vita, vi prego. Pronto? Sì. E il conduttore? Sì. Giorgia da Roma, signora Giorgia da Roma, dai, un po' di ascoltatori, Giorgia da Roma, dai. Salve Cruciani. Dimmi. A proposito di... Sì, però hai, non so che cos'hai, Giorgia, il viva voce, No, perché sento che dici che ti rompe i coglioni e anche a me rompe i coglioni, quindi non lo utilizzo mai. Vabbè, dai, forza, vai avanti. Ok. Allora, ieri sera, a proposito della monogamia, che hai fatto tutto il discorso del che sono nervosi i monogami... Allora dico, tu che non sei monogamo, sei poligamo e ci tieni, ma come mai parte che lo dici tu? A parte che lo dici tu. L'hai detto che te non ami la monogamia, giusto? Sì, vabbè, però non è che sono poligamo e adesso. No, non ti contraddire, dai. Va bene, dai, allora, forza. Mai tu che hai sostenuto che sono nervosi quelli che sono monogami? Ho detto che la monogamia può provocare... Mi puoi dire di parlare, per favore? Sì, ma questa è morta. Dopo fatti quanto ti pare, però fammi finire. Tu hai sostenuto che questa è da zanna. Insomma, devi avere sempre ragione tu, per forza. Devi avere... Hai sostenuto che... Vabbè, non si capisce una mazza, dai, adesso ti casso direttamente, ti escludo perché non si capisce una mazza. Ernesto da Roma. Buonasera Cruciani. Ernesto, senta, dimmi. Io volevo dire che sono molto arrabbiato per quello che stanno combinando a Galan. Dopo avergli ghigliottinato Berlusconi con quell'assurda sentenza Mediaset, adesso stanno abbattendo un altro pezzo del centrodestra. Ma stanno abbattendo adesso, non esageriamo, dai, su, stanno abbattendo. È proprio un obiettivo. tentativo dichiarato dal 94. In Italia non c'è la democrazia, c'è la magistocrazia. Comandano loro, fanno un concorso a 26-27 anni e poi comandano l'Italia. Ma che stiamo scherzando? È una vergogna, è una cosa che bisogna dirla questa. Vabbè, poi? Tutto a destra, questo volevo dire, che bisogna... Ma beh, è una cosa vecchia ancora, i giudici, Berlusconi, Galan, mi sono fatto due coglioni con questa storia. Ma faranno anche Matteo Renzi, perché se mette mano alla riforma della giustizia se lo fanno subito, ha sprombattuto, Non ammettono interferenze, per loro la divisione dei poteri è una cosa che sta solo nei libri. Ma che scherzi? L'Associazione Nazionale Magistrati è un covo di ribelli, di rivoluzionari. Un covo di banditi. Rivoluzionari vogliono... togliere di mezzo tutti coloro che limitano la loro azione, il loro potere, soprattutto quelli di sinistra, i magistrati sono... Vabbè, Ernesto, grazie, ciao. Marcello, provincia di Udine, vai, Marcello. Buonasera, Cruciani. Bon, gonde monades, come c'è Parfurlan. Non ho capito, scusa, Marcello. Ho detto basta cazzate, perché adesso io avrei veramente voglia di sfogarmi con lei in merito a un problema che ho inerente alla locazione della casa che cerco di affittare. Cioè? Ma perché dovrebbe interessarci, scusi, questa allora, cosa? Cioè, no, perché ci dovrebbe interessare lei che vuole affittare la casa e magari incontra problemi? Dimmelo, magari c'è qualcosa di interessante. Mi lasci parlare. Allora, io praticamente ho 46 anni e da 30 anni praticamente lavoro nell'edilizia. Ho il male del mattone come molti miei corregionali e mi trovo un proprietario di una casa nell'immediata periferia di... Vabbè, bastava dire ho una casa, non ci interessa nemmeno dove. Allora? Benissimo. Allora, siccome io praticamente soffro... c'è la crisi dell'immobile e praticamente io devo... Aridaia con questa crisi dell'immobile. Ma perché ci dichiamo? Marcello, cosa vuoi fare? Vuoi affittare una casa? Voglio affittare a puttane, affittare a trans, voglio affittare a chi ha un reddito o si crea un reddito tale da potermi garantire il pagamento dell'affitto. Sì, visto che lo Stato mi obbliga a pagare tasse e balzelli e io devo in qualche modo far rendere il mio immobile. Chiaro? Vabbè, vuoi affittare a prostitute, ma lo puoi... Marcello, ma guarda che puoi affittare tranquillamente alle prostitute, ma chi l'ha detto? Non è così. Ma come no? Puoi affittare una persona normale e questa persona accoglie i clienti in casa sua, ma di che state parlando? Ah, vabbè, però non è che può affittare. Io vorrei utilizzare un contratto di locazione dove praticamente le utenze resterebbero a mio nome. In questo caso potrei essere accusato di sfruttamento della prostituzione. Certo. Vabbè, ho capito. No, guarda, se vieni, ho capito. Capisco che lei ha qualche rotella un po' strana, però Marcello... No, io la rotella ce l'ho a posto, se lei segue il mio discorso... Marcello, guardi che io sono con lei, cioè se le dovesse capitare una cosa... Se le dovesse capitare una cosa del genere, noi siamo al suo fianco. Lei ci chiami ogni sera e noi faremo la battaglia contro chi l'accusa di sfruttamento della prostituzione. Non si preoccupi. No, io voglio delle risposte da parte. Siccome io mi sono rivolto a dei professionisti del settore che si occupano oltretutto solo di affitti qui a Udine, e loro stessi mi hanno detto c'è questo problema perché appunto... Ma lei per forza... Scusi, Marcello, ma lei per forza le prostitute deve affittare questo appartamento? Sì, perché guardi, io ho fatto uno studio preciso, certo che l'ho fatto preciso, come ogni persona che lei pensa che io abbia le rotelle fuori posto, invece ce le ho anche troppo a posto, nel senso che chi esercita la prostituzione migra e gira praticamente in tutta Italia, si ferma per brevi periodi, un mese, due mesi in una città, poi cambia, va in un'altra, ok? È il cliente giusto per me, perché io ho una casa perfetta per questo tipo di attività. Cioè lei ha una casa perfetta per essere trasformata in un bel bordello? Cioè, no, non in un bordello, in una casa dove una persona può esercitare qualunque casa può essere utilizzata perché no. Che cosa ha a casa sua di particolare? Mi dica, che cosa ha? I cazzi di gomma attaccati? I cessi trasformati in qualcosa di strano? Che cosa ha? No. Mi spieghi, cosa ha di particolare? Io ho la certificazione energetica, tutti gli impianti a norma certificati, regolarmente accatastata, è perfetta. Ma che c'è? Ma è perfetta per chiunque ci debba andare ad abitare? Perché proprio per le prostitute? No, perché io gli ultimi che ho tenuto qua qua, mi hanno lasciato la casa praticamente in condizioni pessime, ho dovuto rifinteggiare tutto e sono fortunato che mi hanno pagato l'affitto. Ma questo lo chiama noi, però, ma non questo che non capisci, che è drammatico. Se con le professioniste del sesso io questi problemi sono sicuro ma di non perché? Avere. Chi gliel'ha detto? Perché di sì, perché una persona che accoglie i clienti in casa per esercitare la prostituzione non li fa trovare in una situazione di sporcizia e di degrado. Capite? Ah, secondo quindi lei, secondo lei le prostitute mantengono meglio la casa? Questo è interessante, certo, però come cosa. Certo, eh? Però lo Stato non mi chiarisce il fatto è appunto che se mantengo le utenze. Parenzo, qualche rotella qua, gli ingranaggi sono un po' inceppati. Il suo ragionamento può avere una coerenza. Dice una signora che lavora, ma anche una sarta, ad esempio, che lavora in casa, no? Una sartina di quelle che fanno. Sì, può mantenere anche io se permette. Ma lei vuole le zoccole? Ma chi se le frega? Marcello, lei vuole le zoccole come lei vuole le zoccole, le prostitute come clienti, perché alla fine no, vuole farsi qualche persone serie. Lei vuole farsi qualche scopatina, glielo dico io. Lei vuole farsi qualche scopatina, glielo dico io. No, guardi, io sono soddisfattissimo, sono tranquillo, io non ho problemi di insoddisfazione sessuale. Il mio problema è con uno Stato che mi crea. Vabbè, questo è problemi. Questo è fissato che vuole affittare la casa alle mignotte. Fate io affittare sta casa alle mignotte, che sui giornali sui giornali pubblicizzare continuamente queste attività per le quali poi vengono anche percepiti dei danari e lo Stato prende anche vabbè, i soldi delle tasse per questi benissimo servizi. Nel mio caso io devo essere sospettato di sfruttamento. Ma nessuno sospetta di nulla, non si preoccupa. Quindi, perché io lo devo garantire io? Chiami Barisoni, chiami Barisoni, chiami Barisoni. No, chiamo lei perché lei è un giornalista, parla sempre di sesso, di prostitute e quant'altro. Mi capisca lei che nel momento in cui affitto con la locazione, capito dove siamo finiti? Fatti delle domande. Se siamo diventati il punto di riferimento di questa fauna, no? Certo, di questa... certo, lo dico da sempre io, c'era un motivo. Se ad esempio un grande manager non telefona per dare cose sull'economia, ma chiamano questi spostati per chiedere addirittura un nostro aiuto. Ditemi, no? Ditemi. Ma sono problemi reali della gente, però sì, altro che i grandi. Si occupa di affari, perché non occuparsi non di questa, perché non anche di perché non anche di puttane, perché dice, non anche di puttane, visto che tra l'altro anche firmato il referendum per la liberalizzazione, la legalizzazione, la riapertura delle case chiuse, quindi non vedo il problema. Ti abbraccio, amico mio. Vabbè, delle risposte te le daremo adesso, qui non è che lo sport è Cruciani, che sì. Qua noi dobbiamo far rendere l'immobile forte Friul, Ponte Mazzul. Vabbè, ciao amico mio, ciao. Come moleste moschito. Vabbè, incredibile. Come moleste moschito. Buonasera. Dica. Io vorrei parlare di puttane. Vabbè, ho capito, dai, su. Questo è un altro. Why don't you go? Perfetto. Ale. Beh, è ritornata, l'abbiamo un po', devo dire che l'abbiamo un po' snobbata da quando non è più deputato, Da quando non è più deputato è stata snobbata dalla Zanzara in maniera anche vergognosa, devo dire la verità. No. Che sembra che non conta più un cazzo, sì, che è lì in Germania è andata, adesso si trasferisce in Germania. Siamo stati molto cattivi, diciamo la verità, siamo stati molto cattivi, però a lei non gliene frega niente, che mica. Paola Concia è con noi, buonasera. Buonasera, bravo, non me ne frega niente, per carità, voi mi state molto simpatici, però diciamo che me ne sono fatta una ragione che mi avete stoppato. Però non c'è, diciamo la verità, siamo a Concia, non è che starebbe male in questo Parlamento, tutti i signorzi, tutta gente, tutti perfettini, tutti soldatini di Renzi, almeno dai, su, è una persona no, brillante. Dai, brillante. E che vuoi fa? E niente, è andata così. Sì, no. Ma perché ti ma ti trasferisci in Germania definitivamente? Questo secondo me da quando? Jawohl. Jawohl. Jawohl. Jawohl. Ti faccio molte paura, mamma mia, ma domenica c'è l'inferno lì, domenica. Oh, mannaggia, zitto, io invece sto a Roma, maledizione, guarda. E come fa la tua compagna senza di te? Infatti è molto arrabbiata, sì. È molto arrabbiata. Ma vi siete mai baciate in pubblico? Sì, immagino di sì. Ma sì, sarà capitato. Sì, capitato. Sicuramente molto più serenamente in Germania che in Italia. Sicuramente. Sì. Qui avresti un po' di remore ma a farlo. No, remore. Ma no, ma sai, uno che scammica si mette a pomiciare, come si dice a Roma. E perché no? Ormai sarà capitato che ci siamo scambiato un bacio, sicuramente. Ti hanno guardato male in Italia, così, gente che ti guardava. Ma guarda, sì, insomma, sicuramente più io ho avuto più remore, no? Cioè, è sempre stato un po' più. Che fai? No, qui no. qui no. Vabbè, ho capito, però bisogna pure rompere questo tabù e bisogna farlo apposta, secondo me. Secondo me bisogna andare nei centri commerciali, io ho esposto questa tesi, nei centri commerciali all'ora di punta con le madri che portano i passeggini, con le madri che portano i bambini, no, con le che tengono per il bacio i bambini e baciarsi davanti ai bambini. Ecco. Dai, cominciate due parenti. Ma no, perché noi siamo eterosessuali, però noi siamo, siamo pacificamente, pacificamente siamo etero. Serenamente e convintamente, io almeno e convintamente. Ma tu tendi sempre a rimarcarlo, secondo me un po' troppo tendi a rimarcarlo. Davide sempre no, Davide tende sempre a rimarcarlo un ho po' troppo. Sono quando cambio, sì, come... sappiamo, Davide, lo sappiamo, c'ha pure due meravigliosi bambini. Vabbè, ma che c'è? Tre piano dei proci con i figli, dai. No, su, ma qua... diciamo... non si dice proci Crusani. No, ma mai autorizzato. Mai... mi hai autorizzato tu, si no, dice. Sì, sì, ma adesso basta. Ma come basta? Vedi, certo. Ma come basta? Ma stai scherzando? Adesso basta, Crusani, non ti autorizzo più. Adesso ufficialmente basta. Ma come sono stato autorizzato fino all'altro giorno da te, dalla massima espressione della gaytudine italiana? Cioè, tu una... sei un'icona gay, questo. Però adesso basta. Ma no, ma come basta? Io posso dire froci perché sono autorizzato da te. Adesso tu mi togli questa autorizzazione, questa bolla papale. La bolla della Conci. Non so, mi ribellerò a questa roba. Fai qua. Ricorso al TAR. Senti, ma che fai te. Farò ricorso al TAR. Senti, ma che te ne sembra di questa uscita dalla Pascale? Grandissimo, io sono ovviamente molto favorevole, grande sostenitrice della presa di posizione della Pascale, la quale ricordo sempre sommessamente che sì. Ci abbiamo avuto quanti anni di della moglie di Berlusconi, di Veronica. Ah, Veronica Lario, sì. Beh, che era diventata anche un'icona della sinistra, perché insomma sappiamo sì. quello che è accaduto. Beh, però non ha mai detto una parola. Ah, tu dici 100 volte meglio la Pascale della Lario. Vabbè, su questa cosa io dico. Sì. Su questa cosa la Pascale comunque ha preso una posizione, ha detto che vuole essere iscritta, la Siria ha detto voglio fare questa battaglia, sento di farla, io penso che... Però è interessante questa, tu dici la Veronica Lario, diventata simbolo della sinistra per la questione delle donne, di Berlusconi, eccetera, paladino del corpo delle donne, vituperato da Berlusconi, eccetera, alla fine tutto sta baradam, tu dici una parola sui gay in tutti questi anni? Ma voleva pure dire in tutti questi anni, no? Zero. Invece è arrivata la Pascale, quella del Calippo. Zitta, hai visto? Quella del Calippo. Dentro la destra, oggettivamente, no? No, però tu dici quella del Calippo che è lontana, magari, che uno poteva immaginare lontana certo. dalla mentalità aperta sì. sugli omosessuali e tac. Ma perché, perché secondo te? Molti sospettano che ci sia qualcosa che riguarda la vita personale. Cioè, immagino. Io guarda, per me la Pascale è la compagna di Berlusconi, per cui perché evidentemente ci sono tanti eterosessuali che sono, te compreso, Parenzo compreso, che sono sostenitori dei diritti degli omosessuali, certo. o no? Certo. No, ma che sì, dica certo. tutti quelli che sostengono i diritti degli omosessuali eterosessuali sono ambigui, no. No, certo. Milioni di amici per sfortuna e quindi lei fa parte di quelli come si dice gay friendly. Ma ecco, però ti stupisce questa l'ex moglie, che insomma questo silenzio storico della ex moglie, no? Ecco. Non è che ti stupisce, un po' mi stupisce il registro, no? Cioè, io insomma sono sempre abituata poi a ricordare, io non dimentico niente, invece noi siamo abituati in Italia a dimenticare dopo 3 secondi quello che, però registro che se uno fa una valutazione dice, però Veronica Lario, che era questa, per carità, è una donna stimabilissima, ma però non ha mai detto una cosa, non ha mai detto una parola. Senti una cosa, ma è vero che la Santanchè è un'icona gay? Sì, gliel'ho detto anche ieri, guarda, l'ho incontrata ieri per caso. Gliel'ho detto e lei è stata molto simpatica. Ha detto, io sì, sono un'icona gay e voglio che voi non vi sposate proprio perché sono un'icona gay, cioè vi voglio bene, vabbè, insomma abbiamo fatto due. Dunque, la cosa è questa, Santanchè è un'icona gay, come me d'altra parte. Come te. Ma lo sa? Cioè un'icona gay nel senso che piace moltissimo, se tu dovessi scegliere, diciamo, mettiamo Paola Concia libera, diciamo, single, se tu dovessi scegliere con chi stare, diciamo, con chi passare una notte di fuoco. Una notte, una bella notte di sesso, come dici tu a Roma. Ma con chi la passeresti? Con la Pascale o con la Santanchè? Nessuna delle due. Ah, dai, su. C'è un vizio ideologico, ragazzi, però. Mamma. C'è uno stop ideologico, però. Ma no, guarda, Paola. Non è quello. Io non sono una ideologica. Ma che gli frega, sono fidanzata con una ragazza molti anni con una ragazza che votava a destra, per cui molti anni fa, ma che no, ti piacciono? No, non sono il mio tipo, nessuna delle due. Così diverse, nessuna delle due. Ma perché? Perché no, magari c'hanno qualche ritocchino, perché sono troppo precisine, ti piacciono? Sai, se una persona ti piace o non ti piace, non è che è quella roba istintiva, no? Non mi piacciono. Non ti piacciono, non, eh? Non ti sono il mio tipo. Vabbè, ma tra le due ne preferirai una, no? O no? No. Beh, la Pascale è più acquestapone, cioè, più acquestapone. Più a questa pone, però, però hai visto, alla fine, per carità, ma la Santa è una bella donna, per carità, se non poi mi si arrabbia che mi dice che io la tratto male. Ma no, perché no, piace perché tanto piace tanto alle lesbiche? Chi? La Santa Anche, che ne so io, lo saprai, non sapevo questa cosa. No, non sapevo che era così. Beh, tu, ma non gli hai detto che la Santa Anche è un'icona gay, scusa? Ma sì, perché io la prendo in giro per scherzare, ero meno convinta di quello che dico a te, diciamo, l'ho presa un po' in giro, se era per scherzare. No, però un po' è vero, secondo me, perché c'è questo piglio, no? Che ne so, la donna, no? La donna col frustino. La donna col frustino, no? Una sorta di cosa sadomaso. Sì. Ta, ta, ta. È la mia. Ogni tanto c'ho qualche. Ogni tanto c'ho qualche. No, con qualche deriva che penso alla omosessualità legata alla perversione, che non c'entra niente. Però ogni tanto. Bravo. Ciao. Noi Anna Paola Concia, ex deputato del Partito Democratico, ora emigrata in Germania, che dice, sui gay la Pascale è meglio dell'ex moglie di Berlusconi. Allora, voglio chiedere alla Concia però chi è che porterebbe in tribunale. Taormina, Bonanno. Bonanno ha detto che non ci si può baciare in pubblico, vuole mettere le multe, allora, 500 euro, ma secondo me è incostituzionale. A parte, sì, appunto, adesso si beccherà le denunce, quindi sui giornali. Dopodiché, tra tutti quelli che mi hai detto, io li porterei noi in tribunale, ma da un bravo psicologo. Addirittura? Pure il professore Taormina. Ah, il professore. Deve essere proprio uno bravo. Ah, per il professore ci vuole lo psicologo, dice. Ci vuole lo psicologo e dice che i gay sono malati, hanno delle tare mentali, hanno delle tare genetiche. Sì, quelli che sono sempre troppo ossessionati dai gay, che devono andare allo psicologo. Ma secondo te che cosa hanno? Non basta, diciamo. Il tribunale non basta. Però dai, non si può portare in tribunale Taormina perché dice queste cose, no. Sì. Ma no, ma io infatti io lo voglio portare allo psicologo, non in tribunale. Ma senti, io non ho capito, ma che cosa, secondo te, per esempio, Bonanno, perché è così fissato sugli omosessuali? Che è successo? Questo appunto, solo uno bravo psicologo ci può svelare. Ma cosa ci può essere dietro? Un trauma, qualcosa? Un trauma, un evento, che cosa? Non lo so, le ragioni possono essere. Io ho sempre stata, diciamo, diffidente verso chi continuamente è ossessionato dai gay. Un po' è chiaro che, come è noto, in Italia parla che pronunci la parola gay e vai sui giornali, quindi insomma purtroppo sempre in questo modo un po' becero. Per cui è chiaro che uno che fa come Bonanno, che adesso mi pare che sia in Europa a fare danni, no? Sì, in Europa. A fare danni. No, a far danni è giusto, ha ragione. Davide. Cioè, hanno avuto traumi da piccoli, che è successo? Chi lo sa, sicuramente non sono risolti, cioè uno che è ossessionato dagli omosessuali non è una persona, cioè Taormina non è risolto, secondo me no. Però dopodiché tanto non posso essere denunciata per questo, no, ma non credo, ma che c'è paura del professore? Beh, certo, il professore, diciamo che denuncia facilmente, il professore, diciamo. Esatto. Ma scusa, ma a questo punto, dopo la Pascale, secondo te non dovrebbe essere Berlusconi a prendere direttamente la testa dell'arcigay o no? Ma no. No, va bene così, adesso non è. Va bene così, Feltri, va bene la Pascale. Bene la Pascale. No, va bene così. Non c'è bisogno che Berlusconi prenda la tessera dell'arcigay, davvero non c'è bisogno. Va bene. Ciao cara, a presto. Grazie. Ciao. Allora, dove andiamo? Andiamo innanzitutto da Alfredo, Milano, Alfredo. Marco da Lucca. Eccomi qua, posso capo? Sì. Allora ascolta, io ho 1:40 di puro sacrosanto e giusto odio. Se tu mi concedi 1:40 ti spiego tutto. Dimmi, dai. Allora, ti spiego. Devo parlare con quel nano malefico, la sputacchiera del Bar Zanzara che c'hai lì accanto. A casa va bene tutto, sì, a casa sua, sì, tutto sì, a posto. A casa mia sì, ma anche bene. Al bar va bene. Però te l'ho detto anche l'altra volta, la bene. Sputacchiera nel bar ci vuole, ma non di fronte al bancone. In un punto che non si vede, che tu sai che c'è. Ti devo dire una cosa, cara la mia sputacchiera. Allora, prima volevo dire bellissimo, cioè, quando hanno chiesto a Cruciani di fare il garante per l'affitta mignotte, la mignotta Angelo del Focolare che tiene bene la casa è una cosa meravigliosa e questo avvalora ancora di più la mia tesi. Preparate ambulanza a Lucca intanto, grazie. Ambulanza a Lucca, sì. Grazie. Prego, prego, avanti, avanti pure. Ambulanza a Lucca, grazie. Poi, quattro infermieri a bordo e solita dose, grazie. Sì, sì, avanti, ascolta, prego. Nano, ascolta. Ambulanza a Lucca, intanto. Visto che non fai mai un cazzo, sei inutile. I poveri ti piacciono tantissimo perché non li hai mai visti da vicino. Dal tuo cazzo di superattico di merda ti piacciono tantissimo. No, nessun superattico. Visto che non fai un bel cazzo di niente, prendi, visto che sei sempre in giro con dei collegamenti di merda dove non si sente niente, con quel telefono del cazzo dove non si sente mai un cazzo, visto che tanto ci devi stare in giro, vai a Santa Maria Novella, tu ti sei rifiutato di fare il servizio sui camionisti froci. Ma quanto odio c'hai dentro? Ma quanto, ti, ma quanto ti rode? Aspetta, ma quanto ti rode? Ma quanto ti rode? Che dentro sto odio dentro adesso telefono 800 25 la linea non c'è perché è occupato, ma lui insiste, intigna nano, Marco da Lucca tutto il giorno, la moglie che dice ma che fai Marco, che fai? No, devo chiamare la zanzara. E la moglie che dice: ma no, amore, vieni, che non voglio mangiare. I giorni che non mangia, disidratato. No, devo chiamare la zanzara. Oggi finalmente Marco da Lucca prende la linea. E un'ambulanza senti, poi nano, se lo porta senti, via. Senti, nano maledetto, ascoltami. Tu ti sei rifiutato di andare a fare l'inchiesta sui froci. Quando te l'abbiamo chiesto tutti di andare in autostrada e vedere se effettivamente sì, te l'ha chiesto il bar. Ora te lo chiedo io. Vai a fare una cazzo di inchiesta a Santa Maria Novella sui Rom. Ma ci vai. E poi io ci vado. Io ci passo quasi ogni settimana per Santa Maria Novella, sai, caro Marco da Lucca. Probabilmente scendendo dalla ci passo, rossa no. Beh, vado su Freccia Rossa, questo certo, perché non è un reato andare su Freccia Rossa, caro il mio Marco da Lucca. Tu non so se vai con la littorina, vai a piedi, vai con la carrozza, non puoi muoverti perché essendo nell'ospedale di Lucca non puoi muoverti, questo è chiaro, quindi il treno lo vedi dalla televisione al massimo, dalle sbarre lo vedi, perché l'ospedale è vicino alla strada ferrata, dall'ospedale lo vedi. Cazzo in vita tua, io stamattina sono andato in giro per uffici pubblici. Per questo che ti rode? È per questo, col caldo, tutto sudato, Marco da Lucca tutto sudato, che torni a casa pieno di sudore, che puzzi pure, perché le camicie tutte piene di sudore, tutto sudato, che tutto il giorno in giro sotto il sole a portare delle carte, tutto con le carte, tutto. Cioè, ma te non capisci un cazzo, ma se vieni qui, vabbè. Allora, dicevamo, sono andato in giro per uffici. Bravo, tutto il giorno sotto il sole. Ma avete finito o no di battibeccare? Avete finito o no? Adesso lo porto via. Questa cosa che è importante. Io ho dovuto fare delle richieste per dei permessi e ho dovuto riempire dei moduli che si attengono al regio decreto. Io non so se tu ti rendi conto, nano di merda. Ma questo è il problema di questa cazzo d'Italia. Io ho dovuto regio riempire decreto, dei moduli certo. Scritti da Umberto I, il regio decreto. E secondo te io ho i soldi da spendere per fare la cooperativa per aiutare i Rom? Devono andare a fare in culo i pochi soldi che c'ha questa Italia. Li deve spendere per cose utili, non per pagare un biglietto. Beh, forse hai ragione, forse è vero. I soldi vanno spesi per pagarti l'assistenza sanitaria obbligatoria, su questo non c'è dubbio. Per te. L'ospedale psichiatrico per te, questi sono soldi ben investiti indubbiamente, perché sei un pericolo per te e per quelli che ti stanno intorno anche. Sei pericoloso per quelli che ti stanno intorno. Che figura che fai fare alla tua famiglia, mamma mia, quelli che ti ascoltano a Lucca. Che figura che cos'è? Che cos'è? Scusa Marco, non ho capito, che cos'è Parenzo? Non mi permetterei mai di definirlo tonto, non lo direi mai. Se un giorno mi senti dire Parenzo, sei un tonto, denunciami. Non lo dirò mai che sei un tonto. Che figura tonto. Allora, la tua famiglia. Sui Rom ha ragione Marco. Tu spiegami perché. No, io se uno sputa addosso a una persona, se uno molesta una persona, va a finire che si fa una cooperativa per dargli il lavoro. Ma dico, ma stai scherzando o no? Stiamo scherzando o no? Chi sputa è un villano e viene denunciato. Ma quello succede nelle stazioni. Ma questo anche quando un ultras spacca una vetrina, quando c'è la maleducazione è trasversale, non è che appartiene ai Rom la maleducazione. Ma chi ha detto questo? Ma chi ha detto questo? A quelli che a Milano vanno a fare il baccanali in quella zona lì, come si chiama? Ripa di Porta Ticino. Zanzare, siete solo piccole creature. Vivete solo per una stagione. Succhiare il sangue alla gente vi sembra normale? Io c'ho anche perfino il cagnolino. Potete amare con questo presentimento di dover dare il sangue in cambio di un po' d'affetto. Non posso più lasciarvelo fare. Mi spiace, zanzare. Siete zanzare, piccole, cattive, inutili creature che prendono senza dare. E ne pieno il mondo, ma io ne ho un paio che mi girano attorno da troppo tempo. Volate via, cercatevi un'altra pelle da torturare. Non ho più spazio per voi. Non posso più lasciarvi volare, cenare, succhiare su di me. Lo so, è certo. Oh, mi hanno spedito questa canzone, chiamiamola così, questa canzone, sì, questo brano. Questo rap, rap, dai, non esageriamo, rap. Beh, poi vi dirò di chi è, Oh, Maurizio da Bologna. Buonasera, Maurizio? Ascoltatori. Dimmi, buonasera. Dimmi. Mi sente? Sì. Senta, purtroppo mi sono perso questo ultimo intervento e mi è sembrata veramente una roba da telefono azzurro, direi. Cioè? Perché il livello si stia abbassando ulteriormente. Comunque il mio intervento era riguardo l'omosessualità. Sento che se ne parla molto ultimamente. E allora? È un guaio, però. In che senso è un guaio? Nel senso che, insomma, si parla più della cosa, sì, e diventa quasi la cosa principale. Ma che diventa la cosa principale cosa? Nel senso che operiamo delle scelte in base alle proprie scelte sessuali. Si parla di omosessualità soprattutto, ma voglio dire, sembra quasi che sia l'unica cosa esistente e l'unica cosa per la quale uno può fare determinate scelte in base a quello. Ma, chi te l'ha detto? Non ho capito niente. Ma vuole spiegarsi in un italiano? Una pregiudiziale. Ma una pregiudiziale per fare cosa? Di chi? Mettiamo soggetto, verbo, complemento oggetto, volendo. Esatto. Allora, chi è il soggetto? Qual è? Il soggetto è che gli omosessuali, dato che si sentono omosessuali, vogliono avere si sentono omosessuali, allora, vogliono soggetto, avere cosa? Gli omosessuali, soggetto, no? Gli adesso la scriviamo. Gli omosessuali, soggetto. Sì. Verbo. Vogliono una domanda, una domanda personale, un momento, una frase alla volta, con calma. Esatto. Gli omosessuali, soggetto, vogliono avere, giusto? Che giusto. Cosa? Sì, no, che ne sento parlare molto, ma mi sembra che ne sente parlare molto. Bene, allora, cambiamo tutto. Sì. Sento parlare molto di omosessuali. Va bene? Punto. Poi, frase. Poi mi sembra che facciano di necessità virtù. Mi sembra che facciano di necessità virtù. Non ce la posso fare io. Però non ha che molto vuol senso dire, la frase Maurizio, in sé, cosa così vuol dire? Dato che si sentono omosessuali. Dato che si non sono avere solo. Vogliono avere che? Vogliono avere cosa? Qualsiasi cosa. Vogliono avere soprattutto la visibilità. Questa la è visibilità per loro. La visibilità. Cioè, che si sentono omosessuali. Ostentano, vogliono ostentare. Avere... Vogliono ostentare questa loro omosessualità. Esatto, proprio così. Ed è giusto o sbagliato? È giusto o sbagliato secondo lei? Bisogna fare come da guida, no? Ogni tanto. Come è giusto o sbagliato? Secondo me è sbagliato. Cioè non devono andare in piazza, non devono ostentare, giusto? Così? No, non devono ostentare, no. Non devono ostentare. No, e se uno lo fa, lei che cosa? Come se bisogna uno lo fa, vuol dire che si vuole far vedere ed è un esibizionista, un narcisista, un... Vedi che ci siamo, mano a mano ci siamo arrivati con la nostra guida. Cioè chi va in piazza ad ostentare la propria omosessualità, cioè a mettere in mostra la propria omosessualità, è un narcisista, un... esibizionista. Un esibizionista. E vabbè, ma siccome nel mondo esistono anche gli esibizionisti, non è che possiamo. Però diciamo non possiamo proibire l'esibizionismo, esiste anche questo. Una precisazione, però. Una precisazione ben importante, cioè, sì, la precisazione. Se parliamo di persone maggiorenni, siamo d'accordo, ognuno è maggiorenne e si prende le proprie responsabilità. Quando invece purtroppo capitano delle cose con dei minorenni. Capitano insomma, che cosa con dei minorenni? Capito. Cosa capita con ci dei siamo minorenni? Siamo ripersi qui. Beh, insomma, le ultime faccende del quali Vaticano faccende? Lasciano un po' perplessi. Ma che c'entra pure la pedofilia? Certo, ma tutti combattono questo. Che c'entra la pedofilia con i gay, però? Scusi. Beh, in qualche modo, insomma. Cioè, lei dice molti gay sono anche pedofili? No, però no. Mi sembra che sia una cosa abbastanza collegata, in un certo modo. La zanzara è quell'odioso insetto. Il soggetto è che gli omosessuali, dato che si sentono omosessuali, vogliono avere. Mi ha beccato, mi ha beccato. Gratta, gratta, ma peso è. Pure lo spray a di zanzara mi son messo. Come dimenticare, ragazzi, la grande battaglia tra Sgarbi e l'universo mondo, in particolare con Fuxas, il mitico Fuxas. Allora, tutto viene da che cosa? Viene dal fatto che in una trasmissione televisiva nel 2010 Sgarbi disse Fuxas, l'architetto Fuxas, fascista, architetti ladri. Che è un distruttore, è un fascista, prende 22 miliardi di parcella, neanche Bramante, Palladio, Michelangelo hanno preso tanto, in galera, altro che Bertolaso per la casa da 1500 euro al mese, architetti ladri. Che le più volte non lo vedi mai. Ovviamente Fuxas lo cita in tribunale per diffamazione e altre cose. E l'altro giorno da noi Fuxas dice Sgarbi ha detto che pur di non pagare si inginocchierebbe davanti a me. Sentite. Basta che non cacci i soldi, sarebbe pronto anche a chinarsi davanti a me e chiedermi scusa per gli insulti che mi ha fatto spesso. E gli ho detto no, tu devi pagare, gli ho detto, no, lui deve pagare i soldi, deve cacciare, perché la cosa che gli fa male a Sgarbi sono i soldi, il resto non gli frega nulla. Cioè lui dovrebbe mandare una lettera implorante e poi forse neanche, guarda. Pronta la replica di Sgarbone che dice Fuxas deve strisciare, non pagherò una lira. Sì, deve strisciare lui per quello che ha fatto l'Italia, perché io non pagherò niente a uno così. E che ha fatto, scusa? Ma non è brutta quella nuvola alla fine? Comunque sono lì viste le cose che fa in giro per l'Italia. A parte che me lo posso comprare e fare oro, Fuxas, non ho bisogno e non pagherò una lira perché non verrò condannato per aver detto la verità. Una volta nel braccio e poi all'altro, prendila. Deve strisciare lui per come ha umiliato l'Italia. Deve strisciare e chiedere scusa all'Italia. Deve chiedere scusa all'Italia. Adesso francamente mi sembra deve chiedere scusa all'Italia. Poi c'è la citazione di una chiesa a Foligno da qualche parte. Vabbè, ma questo chi se ne frega adesso. Che effettivamente andandola a guardare, una chiesa che ha fatto Fuxas a Foligno è una cosa, a me piace tantissimo. Però no, a me piace tantissimo. Allora, caro Vittorio, a me la chiesa di Foligno così moderna, che non sembra una chiesa, mi fa impazzire. Cioè la trovo geniale, la trovo una cosa geniale. Ovviamente per Sgarbi è la. Non è che c'era una chiesa prima là, non c'era una chiesa. Ha costruito una specie di cubo meraviglioso. Una botta sul faccio e poi all'altro, una botta nel braccio e poi. Poi c'è un'altra battaglia di Sgarbi, ma ne parleremo più avanti, quella contro il sindaco di La Spezia. Marco da Roma, Marco? Mario da Cagliari. Ciao, buonasera a tutti. Allora, tre cose, erano due, adesso sono diventate tre. Intanto voglio aprire un fan club per l'ascoltatore che mi ha preceduto, perché è fantastico quello che non so, l'italiano era un optional. Due cose. Allora, i gay, si parlava dei gay. Allora, finché non mi toccano, per me possono fare quello che vogliono. Finché non la toccano, sì, cioè finché non. Esatto. No, perché non so. Ma a me perché, ma perché ti dovrebbero toccare? Scusami. Perché a te non è mai capitato? A me è capitato che un gay abbia voluto. Mi abbia cercato delle storie. Così. Vabbè, ma è normale, cioè uno ci prova e lei. Vabbè, poi gli dice ok, finisce. E allora finché non mi toccano va tutto bene. Ma che mentalità è? No, è una mentalità, ognuno c'ha la sua, tu c'hai la tua, tu sei in DOS, io sono in Windows, faccio ognuno. No, la terza cosa era questa. DOS, in DOS, l'altro in Windows, ognuno c'ha la sua modalità, ma di che stiamo parlando? Cioè... No, sono cose evolute. No, volevo dire, volevo proporre un'alternativa, come si chiama, quello della Lega prima che comunque era... Buonanno. Buonanno, sì. Buonanno, sì, che è anche simpatico. No, volevo chiedergli se per lui il fatto che un gay possa essere un trans, che sono due cose diverse, ma comunque si avvicinano molto... In termini estetici, se poteva andare bene, ecco, poteva essere una soluzione. Cioè, non ho capito. Allora, sai, il gay, il gay, lo vedi, ok. Il trans è un ibrido. No, lo vedi, cioè, intendo, si capisce. Quando... Si capisce, ma chi l'ha detto che si capisce? Lei lo capisce? Si capisce quando te lo manifesta, se no non si capisce. Ah, ecco. Beh, allora il trans che c'entra? Con la stampa, io sono gay, a meno che... Allora? No, intendevo dire, se a lui poteva andare bene un discorso con... Se i trans sono per lui... un qualcosa di esteticamente accettabile. Ah, cosa sono? Vuoi chiedere a Buonanno cosa sono per lui i trans? No, nel senso che se per lui vanno bene i trans. Beh, immagino di no. No? Ma non credo. Beh, ma non qual credo, è il problema? Conoscendolo. No, non c'è un problema. Era un'alternativa. Il fatto che lui diceva che i gay, cioè lui faceva anche un discorso estetico, è anche un discorso in natura, quello che ha detto prima. Mentre invece un trans, che comunque alcuni trans sono bellissimi, sono sempre comunque dotati di degli accessori, che degli accessori, sì, certo, degli accessori. Ecco, lo sapere se per lui andavano bene, cioè se un trans andava bene. Ma se che ne so, mo io lo chiederò, dai, Giancarlo da Firenze. Sì, salve, buonasera. Dimmi. Senta, io sono una persona che ha più di 60 anni, anche abbastanza in forma, però giro il mondo in largo e lungo, essendo lungo e largo, sì. Sì, in lungo e largo, mettila come ti pare. Quello, ho solo intervenuto perché vi ho sentito parlare per la storia di Rom. Io sono 4 volte, faccio normalmente il pendolino e quindi ho dovuto anche... Fa il pendolare o prende il pendolino che non c'è più e si chiama... Prende il pendolino. E sul pendolino mi sono trovato 4 volte a dover mandar via la gente, quindi Rom, perché... Che cosa fanno? Prendono le valigie, le portano su dalle persone, le persone specialmente gli stranieri, mi sono trovato anche stamattina con dei ragazzi americani che erano intimoriti e impauriti, nel frattempo mi hanno preso anche la borsa a me, e quindi siamo dovuti intervenire 2 o 3 volte su questa situazione, addirittura arrivando quasi allo scontro fisico. Deve sapere. Ma che fanno concretamente questi rom in stazione? Che fanno? Cosa fanno? Vanno in stazione, sono un gruppo di persone, prendono le valigie, le portano su, se non sta attento portano via quello che lei ha, cercano di poter prendere un qualcosa per portarlo via. Si fanno a schiera in questo caso. Se lei chiama la polizia, perché i doveri, se lei ne parla con le ferrovie dello Stato, in questo caso qua, i ferrovieri ogni 2 per 3 sono a chiamare la polizia, però la polizia è impotente. L'altro giorno, andando a Roma, in questo caso no, non sono riusciti a scendere 2, quindi hanno fatto tutto il viaggio. Ma poi voglio dire, al di là del fatto che loro possono chiedere dei soldi per portare le valigie, qual è la molestia? No, io lo chiedo. La molestia è il fatto che loro non si accontentano di quello che eventualmente lo straniero, parlo anche in una città come Firenze che vive anche di... Non si accontentano? Li va eventualmente a dare, ma ne vogliono di più, quindi infastidiscono, non infastidiscono con la persona, ma con un sistema di aggressività, non mollano questa situazione e se possono prendono quello che eventualmente, se c'è una valigia lì, la prendono, se la mettono in mezzo e se la portano via. Comunque, quindi, Parenzo, tu questi qua che rompono i coglioni, vuoi trasformarli in lavoratori di una cooperativa, capito? Semplicemente per il fatto che rompono le balle, sputano e fanno l'inferno, amico mio, dai. Non io, ieri ha chiamato, minacciano, fanno di tutto. C'è una persona che abbiamo intervistato l'altro ieri, io avanti ieri. Ma tu sei d'accordo però, che c'entra? Sì, che ha detto una cosa di assoluto buonsenso. Cioè che cosa? Cioè quello di trasformare queste persone poco inserite attraverso lo strumento di una cooperativa sociale. Ma dico, ma sei in lavoratori no? Socialmente utili. Ma sei pazzo, che o no? Dando ad ognuno di loro, tu sei mai stato a Parigi? No, dai, perché non, non viaggi, ragazzi, ma non ti piace il mondo. Stai a dicendo Parigi, delle cose folli. Nella dai. Metropolitana di Parigi ci sono quelli che suonano le canzoncine, come sì, c'è, sono a Milano e Roma, no? Che sono anche gradevoli quelli, e che allora? Sono in metropolitana e suonano le loro musiche balcaniche. Allora? Quante... Cosa hanno fatto a Parigi? Gli hanno messo, li hanno in qualche modo schedati, gli hanno dato una tesserina di riconoscimento e gli hanno fatto esercitare, sì, ma, questo lavoro. Scusa, nel, ma le cooperative, tube, come le cooperative, diciamo noi, si nel possono, tube, nell'underground, le cooperative, no? Si possono fare, ma non partendo dal fatto, allora, che tu fai. Siccome qui c'è un problema, una questione di ordine pubblico, ma non da c'è risolvere, la questione c'è deve essere risolta con l'ordine pubblico, fuori dai coglioni e basta. Siccome c'è un tema fuori dai coglioni e basta, fuori dai coglioni, ma non mi interessa, c'è un problema, fuori dai di coglioni, fuori dalla stazione di Firenze, forse facendo fuori dalle una stazioni, cooperativa sociale, ma quale cooperativa, fuori dai coglioni, non vogliono lavorare tanto, utili. Non vogliono lavorare tanto, fuori dai coglioni. Maurizio da Pordenone, dai, sono Maurizio, dai, su, è talmente chiaro che non vogliono lavorare, dai, su, via, sparagliela, ma che dai, spara, fuori dai coglioni, andassero via. Nei campi rom, dove vanno? Nei via. Campi, nei campi, finché, campi sì. Fin quando permetteremo che ci siano i campi, ovviamente. E poi dopo, a un certo punto, dopo i campi rom, uno fa un lavoro, fa un lavoro, fa normale, un lavoro, si affitta un appartamento, dicendo, e non rompe il cazzo. La cooperativa può essere un bello strumento anche di controllo. Ma quale di queste cooperativa? Persone? La scusami, cooperativa la faccio con chi voglio io, non con quelli che rubano e con quelli che sputano per terra. Ma mica costa a te, ma mica Maurizio, costa a te la cooperativa. Scusa, ma voglio sapere che cazzo mangia quel parente lì per essere così deficiente, Dio, a no? Casa sua, Dio, oh, mai tipo, mangio, che tipo di alimentazione fa? Ma lei mai mangio, mai mi invitato a mangiare, che alimentazione fa? Da dove chiama lei? Ma per essere così deficiente uno deve mangiare qualcosa di particolare. Forza, professore, avanti con la spiegazione, ma, illuminato, merdina, avanti. Sentiamo, avanti, sei, forza, professore. Guarda, l'altro giorno venivo a casa da sembra di che stai in un frullatore, Milano, stai in un no? phone sembra. No, sta lavorando, phone. Non sta a fare un cazzo come te. Stai in un sta in macchina a lavorare. Sto lavorando anch'io, sono qui. Stai in un phone. Venivo a casa da Milano, no? Mi sono fermato al Bauli di Verona. Naturalmente mi si avvicina alla Rom col bambino in braccio. Sì. Ma mi chiede dei soldi. Stavo mettendo la mano in tasca per dargli qualche 10, 20, 30 centesimi. Vedo la cabina del camion che si muove, c'era un ragazzo che era lì con lei che mi stava aprendo la porta della cabina. Ho dato capito. Un calcio che l'ho buttato a 4 metri. Capito? Facciamo una cooperativa dei bagnini. Facciamo una cooperativa, va. Facciamo una cooperativa con questi. Invece di mandarli a fare in culo questi qua, perché non facciamo una bella cooperativa, Parenzo, per farli lavorare? Facciamo tante belle cooperative. Tante. Facciamo anche la cooperativa dei lavavetri. La cooperativa dei lavavetri. La cooperativa di quelli dei portantini alla stazione di Firenze. Tutte cooperative. Facciamo tutte cooperative. Perché no? Beh, no? Ci sono le cooperative dei inserimento non dei le vogliono fare. Non le vogliono fare. Per fortuna, che ne dici tu? Quest'altro fammi che sentire sta in Marco da Monza, fammi sentire Marco da Monza invece. Marco, che ha delle cose interessanti da quello che leggo qui, Marco, dimmi. Pronto? Dimmi, caro, dimmi. Tu mi senti? Sì, ti sento, dimmi. Ecco. Sì, dimmi, no, hai chiamato tu però. Io ho chiamato io, no, stavo dicendo, senti. Servi di Roma fuori. Senza dubbi né ripensamenti. Bada. Occhio al Rom. Che ti frega la valigia in stazione. Servi di Roma. Mentre fuori. Quelli della Lega. Senza dubbi. Tipo il signor Belsito. Bada. Quello fregava solo diamanti. Guarda avanti. Guarda oltre i monti. Non permettere al tiranno di accecarti. Pellegrin ce l'ha ancora con noi. Pellegrin ce l'ha ancora con noi. Ma non gli stiamo facendo un po' troppa pubblicità? Sì, facciamo un grande favore. Dovrebbero ringraziarci ogni secondo della loro vita. Della loro vita. Fai vedere quanto. Signor Pellegrin, poi diciamo due cose su Salvini, eh? Mio amico Salvini. Pellegrin. Siamo una radio multiculturale e gli amici islamici vogliamo naturalmente far sentire la nostra vicinanza. Io aspetto ancora che il bambino, gli amici del bambino scemo, si vede che o il taccagno non li paga abbastanza oppure non ha quella allure, quel prestigio presso i migranti da farsi obbedire in modo tale che telefonino in massa a Radio Padania come il bambino scemo della Zanzara aveva minacciato. No, il problema fondamentale è che i migranti non ascoltano la Zanzara e dobbiamo necessariamente, ma non perché per qualche motivo in particolare, semplicemente perché ascoltano altre cose, non hanno tempo, e dobbiamo ancora mobilitare le forze, almeno Parenzo deve ancora mobilitare le forze. Stiamo organizzando. Non so cosa dice su Prandelli, signor Pellegrin. Sentiamo un po' Prandelli. A proposito di Prandelli, vista la velocità con la quale è scappato, non sarà che si era accordato già prima dei mondiali, di solito i contratti da 4 mi sembra milioni di euro l'anno, pensate, prende almeno 3 volte quello che prende Cruciani a Radio 24, pensate, lui prende 4 milioni all'anno, Brandelli, Cruciani invece prende un terzo, pensate un po', no, ancora non ce lo dice, è duro, non ha il coraggio di dirci quanti soldi prende, sì che sono i 20 miliardi di Confindustria a fondo perduto, sono anche i soldi nostri. Pellegrin, fai i conti diversi, anzitutto magari pigliassi tutti quei soldi, un terzo dello stipendio di Brandelli, e comunque non c'entra nulla i soldi a fondo perduto di Confindustria eccetera, possiamo parlare quando vuoi, non... sentite qualche ascoltatore, sentite qualche ascoltatore. Senza dubbi neri pensamenti. Non è Radio Marocco, Radio Africa o Radio Bingo Bongo. Quindi io vorrei sapere perché quel beduino di prima chiama tutti i santi giorni per ripetere le stesse menate, come cambia conduttore ogni giorno a lui è permesso di chiamare e rompere le balle in casa nostra. Perché quella gentaglia schifosa qua, oltre ad aver invaso la nostra terra, sta invadendo in maniera insopportabile anche la nostra radio. Voi dovete impedirlo, basta con questo buonismo di far parlare cani e porci. Quel beduino lì, quel baluba lì, quel bambo bambo lì, non lo voglio più sentire. Yo, ICO. On the road to celebrity, I met a woman that drove me crazy. People acting like, baby, please, just give me something, don't be lazy. You know I cannot have something to do, sticking the pieces back together. Looks like you're melting my attitude, I bet you see my finger out. Di chi è questa voce? Beh, amici miei, non ci potete credere, perché canta. Molti avevano dei dubbi, non era la voce sua. No, ma se come al solito, vedi, Anna, che c'entra Anna Oxa? No, non è, poi non è Anna Oxa, che c'entra Anna Oxa? Sì, dai, su. Arriva Parenzo a dire le stronzate. Ecco, appunto. Sentiamo un altro po', dai, sentiamo un altro po' di canzoni. Allora, Raffaello Fico ha fatto È una showgirl, adesso anche cantante con Rush. Buonasera, come sta Raffaella Fico? Pronto? Ragazzi, c'è il collegamento oppure dobbiamo aspettare che arriva dalla luna? Signora Fico? Signora Fico, Rush? Non Rush niente, qui non corre nessuno, eh? Non c'è nessun Rush. Marco da Monza, dai. Bella voce, Marco da Monza. Pronto? Incredibile, una roba incredibile. Marco da Monza, dai. Pronto? Sì, dimmi Marco, dimmi. Mi senti? Ecco, no, stavo dicendo alla collaboratrice che Buonanno parlava che gli dava fastidio i baci tra uomini, eccetera. Sì, no? Sì, sì. Sinceramente io sono detto, a me non da, indifferente, ma nessuno ho sentito ha parlato della cosa, della poesia meravigliosa del bacio tra donne. Cioè io ho avuto la fortuna, ho la fortuna di avere una moglie che è bisex, quindi con alcune coppie ci incontriamo, è capitato, ed è meraviglioso vedere. Ma non potete invitare anche me ogni tanto? A fare furbina, che mi sa che anche tu con la faccia che c'hai, non credo che ti, credo sicuramente sia già, cioè, capitato. Marco, tu hai una, beh, non è so, adesso sveleremo. Sì, comunque sì, certo. Comunque sì, sì, no, sì, ma la faccia sì. Furbetta ce l'hai. No, non sì. Ho capito, Marco, cioè, tu con tua moglie praticamente fate sesso in quattro spesso, sì. I famosi mucchi, quelli che si chiamano i famosi mucchi. Adesso. mucchi selvaggi è molto interessante questa ma cosa. Anche bello, ma anche bello, sì. Soprattutto prima volta, è anche bello solo assistere tra due donne, cioè senza assolutamente intervenire, ma solo guardare. Solo guardare. È meraviglioso. Sempre Radio 24, siamo al top. Sempre Radio Confindustria. Sempre Radio Confindustria. Per cui non ho capito qual è il punto, allora, perché ci vuoi raccontare queste tue esperienze di vita personale? No, non è che voglio raccontare le esperienze, però ho sentito tutti da fastidio bacio tra uomini che a me, no, anche tra donne è uguale, ma non ho sentito, ma tra donne è meraviglioso, cioè se due donne si baciano in strada, secondo me, cioè i passanti, vedi che ci sono tutti sull'attenti, non so se ho spiegato. Ah, lei dice un bacio tra donne fa meno effetto di un bacio tra, no, fa tra molto più effetto, fa un effetto bellissimo secondo me. Vabbè, a lei perché è un mezzo perverso, Marco, no, che c'ha qualche piccola perversione come me d'altra parte, I mariti devono capire che un cazzo di gomma può assolutamente salvare il matrimonio. Beh, questo non c'è dubbio. Grazie, sì, Marco. Questo è un signore che è intervenuto ieri. Grazie. Beh, Rush. Si sente adesso la signora Fico? Sì, vi sento. Come stai? Io bene, grazie. Ma sei diventata anche cantante? Beh, non c'è male, ce la caviamo tra un sacco di argomenti, cose anche un po' hard, come hai sentito. Cose anche un po' hard. I baci saffici. Tu hai mai baciato una donna, Raffaella? No. No, a dire il vero no. No, non ti piace proprio, non ti piace. Vabbè. No, aspetta, in realtà forse quando presi parte all'Isola dei Famosi ci fu uno scambio di cibo tra la bocca di una ragazza e la mia, ma in realtà non fu un bacio. Cioè, non ci fu un bacio. Il cibo. Mm. No. Però non è un tuo, diciamo, non è una tua... Le donne non ti piacciono, diciamo. Non è necessario, non è necessario, non è obbligato, sai che ormai non ho nulla contro le donne alle quali piacciono le altre donne, però a me piacciono non è il suo, diciamo. Non è il suo, sai che ormai dopo questa cosa della Pasquale siamo tutti un po' coinvolti da discussioni intorno, noi in realtà da prima, intorno all'omosessualità. Però prima ti volevo chiedere una cosa, ma com'è che ti sei messa a fare la cantante adesso? Hai sempre fatto la showgirl, insomma, eccetera eccetera. Adesso ti sei messa a cantare, come mai? Hai ritrovato in te, hai scovato in te delle doti, delle virtù particolari? Ma no, in realtà queste virtù, così come le chiami tu, sono innate e mi hanno sempre affascinato. Mi piace il canto, adoro la musica, mi piace ballare. Ma è tua la voce, sì. È nato tutto per... La voce è tua, Sì, ma infatti è nata una discussione a riguardo. Lo so, infatti. Per smentire tutte le polemiche, ho fatto un video live dove do dimostrazioni del mio saper cantare e che la voce è realmente la mia. Capito, Parenzo? Vabbè. Tu non sapevi di queste cose. No, di questo non sapevo. Indubbiamente una bella voce che mi ricordano, come dire, le tonalità anche del Medio Oriente, un po', no? Un po' frasa. Beh, figo, è napoletana. Beh, non ci sia il Medio Oriente. Ma comunque in realtà, sì. C'entra niente, però. Il singolo, così come tutto l'album, è comunque un genere R&B, pop. Capito, Parenzo? Queste tonalità un però, po' Ofra Asa, guardi signora Fico, mi dia retta. Come? È una cantante israeliana, si chiama Ofra Asa. Lei deve sapere che il signor Parenzo è ebreo. Ma che mi frega, signora Fico? Vabbè, così per dire, ebreo. No, va bene, mica qualcosa contro gli ebrei lei, figuriamoci. Ci mancherebbe. Assolutamente. Signora Fico, anzi, è amicissima del popolo ebraico e di Israele, mi ma pare. Ma che ne sa, non è amicissima di nessuno, perché è amicissima del popolo ebraico? Ha fatto grandissime battaglie a Tel Aviv. Non è vero. Come te lo dico io? Si è occupata di spettacolo fino adesso fa un spettacolo. Tu sei il solito snob. Sotto quell'aspetto lì. Sei il solito snob. Ma Fico ha fatto delle battaglie anche ad esempio sulla questione della Corea del Nord, Corea del Sud, ha fatto delle grandissime battaglie per l'indipendenza. Sì, devo dire che sono andata in guerra. No, in guerra no, ma ad esempio anche per i diritti sull'esperanto, ad esempio, sull'utilizzo della lingua dell'esperanto, quei radicali, ha fatto grandissime battaglie. Sei veramente un cretino. Anche per il Tibet libero, mi ricordo. Ho però visto io la voglio Fico chiedere il Dalai Lama. Tanto simpatico, dai. Senta, signora Fico, però io le voglio chiedere una cosa, ma secondo lei, noi non facciamo domande. No, diamoci del tu, Raffaele, diamoci del tu, sì, per ogni tanto diamoci del tu. Senti, ma tu perché hai votato alle scorse elezioni? Beh, non si dice, ragazzi, il voto ma come è segreto, no? Che domande mi fate? Ho capito che no, dire, ma non ve lo dirò mai. Dai, su, sei berlusconiana, dai. Sei berlusconiana, dai. Hai sempre votato per Berlusconi? Io ragazzi, non vi dirò mai cosa sono e perché ho votato. Ma Renzi ti piace? Renzi ti piace però. Beh, sì, è sprint, dai. È sprint. Sprint. L'endorsement di Raffaella Fico a Renzi. Anche da Raffaella. No, perché che cattivi? No. Mica è una cattiveria. So che ha firmato anche signora Fico lei l'appello perché ci sia il Senato elettivo, mi pare, no? Ma non è vero. Sì, hai voglia. Mi pare, no? Perché assieme al professor Ainis, assieme al professor Zagrebels, mi pare, no? Ma no. Perché devi fare così snob? Perché pensi che non chiedendo, ma che così di snob? No, Parenzo è snob. Pensa e sostiene che una persona che fa la showgirl, la cantante, cioè, non sappia un cazzo di politica, ma non è vero. Infatti sta dicendo che Renzi gli piace, giusto? Ti piace Renzi? Ah beh, certo, sì, ragazzi. Ma cosa ti piace di Renzi, per esempio? L'uomo ti piace, ma no? Mi piace perché per l'amor del cielo è comunque un bell'uomo, ma non si parlava di questo, se non erro, parlavamo d'altro. Sì, di politica, sì, la voglia esatto, di fare. Esatto, appunto. Ti piace la voglia di fare? Sì, un po' la rapidità come Berlusconi. È un po' come Berlusconi, no Raffaella? No, mi piacciono le sue idee comunque, perché lo vedo uno determinato, che non si lascia prendere in giro e crede in quello che fa, che oggigiorno è fondamentale comunque credere in quello che si fa. Assolutamente, ma non ti ricorda un po', tu l'hai frequentato per un po', non ti ricorda un po' il Berlusca? Cioè, Berlusca non mica a dire il vero, io non ho mai frequentato. Ma no, ho frequentato quell'ambiente, Mediaset, eccetera, eccetera. Vabbè, certo, lui è il proprietario della televisione. Esatto, sì. Vabbè, sei andata qualche volta pure a casa di Berlusconi. Avendo frequentato gli ambienti di Mediaset, non vuol dire che all'interno della TV si parli di politica, eh? No, poi mai insegnare. Mai, per carità, non si parla a Mediaset di politica, non si parla mai, no, no, no. Mai, assolutamente. Beh, io personalmente andavo per lavorare, quindi parlavo no, dei certo. Che andavo a fare poi della politica, però, ma non ti ricordi no. Berlusconi giovane, rapido, veloce? Ragazzi, quando Berlusconi era giovane io ero ma no, giovane, anche 10 anni fa 15 anni fa, no, non ti ricordi? Ma voi sapete io quanti anni ho? Sì, lo sappiamo, come ne aveva 20. No, ma che 20? 30. Ma quando? Ma è dell'88, dai, dell'88. Giusto, 26 anni. Aveva, cioè, Berlusconi giovane intendo. Beh, così giovane già fare le battaglie per il non Senato ricordo, federale, però ragazzi, è una cosa pazzesca. Beh, non l'hai visto un po' invecchiato in tele? Scusa Raffaella, non l'hai visto un po' invecchiato di recente Berlusca? A dire il vero, la TV ultimamente la guardo poco. La guardi poco. Non saprei dirvi, no. Ma per esempio, secondo te è uno scandalo il fatto, oppure è una cosa assolutamente normale che una persona stia con una ragazza di 50 anni più giovane? Cioè, tu ci staresti con uno di 50 allora, anni? Allora, a dire il vero, queste sono delle scelte di vita. Io non giudico quello che fanno gli altri. Sì. A lei ti piace? Signora Pascale, ti piace? Ma in realtà non la conosco di persona, però nel vederla in TV comunque è una bella ragazza, una bella donna, direi. No, ma grinta, è una che ti piace come... Non lo so, ragazzi, non perché lo so. Non ma tu ci staresti, cioè ti fidanzeresti con uno di quell'età, così? Io personalmente no, però non giudico chi no, lo fa. Per carità. Ma è fidanzata adesso, Serafico? Ma come, si sta per sposare? Certo, non sai niente, sì. Ma non stai... Non esageriamo, la proposta mi è stata fatta, ma non c'è nulla di definito. Siamo alla proposta. Ma c'è la proposta, lei ha detto sì però. Col figlio del signor Tozzi. Perché non ci invita? Potremmo celebrare noi il matrimonio. Adesso non lo so quando sarà. Però un domani quando un domani. Beh, noi ci rendiamo disponibili con la fascia da sindaci, Cruciani e io. Bellissimo. No, ma io speravo che mi portasse a braccetto sull'altare. Io non credo al matrimonio. Portare una persona anche con me al suo matrimonio? No, io non credo al matrimonio, non credo nemmeno alla monogamia. Non credo nemmeno alla monogamia. Cioè, penso che sia una stortura, una cosa innaturale la monogamia. Che devo fare? Quindi sei single. Totalmente single. Oppure sto con persone che condividono questa cosa. Scusa. Quindi tu la pensi come Marco che ti ha chiamato prima? Un po' sì. Ok, va bene. Esponi alla signora Fico la mia teoria è questa. Io ho detto nei giorni scorsi, una donna non è una vera donna se non porta ogni tanto, mica sempre, un vibratore o nel proprio cassetto, nel proprio così, oppure in borsetta. Ma però questo... proprio così. Io personalmente non faccio uso di questi aggetti. Non fa uso. Vedi, però secondo me, domanda finale, io non ci credo. Domanda finale, una donna per arrivare dove vuole arrivare può sfruttare anche il suo corpo? Secondo me sì. Ma sicuramente la bellezza è un biglietto di visita che può aiutare i primi tempi, ma poi successivamente devi dimostrare di saper fare qualcosa, perché se non hai le carte in regola... Però non è uno scandalo se una usa il corpo per arrivare, non è uno scandalo. Dipende che cosa vuoi dire con questo. Se parli, che ne so, di persone che comunque... Vabbè, finiamo con Rush, magari hanno fatto i calendari. E comunque quando sei una bella donna magari ti vengono proposte determinate cose, non c'è dubbio. La gavetta. Vabbè, io chiudo con Rush. Purtroppo vorrei avere altri 10 minuti con te, ma non ce li abbiamo. Va. Ciao. Ahimè, io scappo. Lo so, beata te che scappi. Hai fatto finta di non rispondere prima, Grazie. Mascherina. Grazie a Raffaella Fico. Grazie, ciao. Voi ci dovete far bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ottima trasmissione, sempre la visione. Radio 24. La passione si sente. Ho anche perfino il cagnolino.